652, sformato di farina dolce. Un signore di Barga, di onorevole casato, che non ho il piacere di conoscere personalmente, invaghito, come gli dice per bontà sua, di questo mio libro, ha voluto gratificarsi meco mandandomi la presente ricetta, che credo meritevole di essere pubblicata ed anche lodata. Farina dolce, ossia di castagne, grammi 200, cioccolata grammi 50, zucchero grammi 30, burro grammi 25, cedro candito grammi 20, mandorle dolci numero 12 e qualche pistacchio, latte mezzo litro, uova numero 3, panna montata con l'odore di vaniglia grammi 150. Prima sbucciate le mandorle e i pistacchi, questi tagliateli a metà, quelle a filetti o a pezzetti, e tostatele. Anche il candito foggiatelo a pezzettini. Sciogliete al fuoco la cioccolata in un decilitro del detto latte, poi uniteci lo zucchero e il burro e lasciatela da parte. Ponete la farina in un tegame e versateci il resto del latte a poco per volta, mescolando bene onde non si formino bozzoli. Poi unitela alla cioccolata e mettete il composto al fuoco per cuocerlo. Cotto che sia, lasciatelo freddare per aggiungere le uova, prima i rossi, poi le chiare montate, e per ultimo le mandorle, i pistacchi e il candito. Ora prendete uno stampo col buco in mezzo, ungetelo col burro d'accio e versateci il composto per assodarlo a bagnomaria. Prima di sformarlo, contornatelo tutto di ghiaccio trito frammesto a sale per gelarlo, e mandatelo in tavola col ripieno della panna surricordata. Potrà bastare per 7 od 8 persone.